I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Quello che stupisce nell'annuale classifica del mensile americano Forbes sui paperoni, ossia i plurimiliardari a livello mondiale, non è tanto l'ammontare dei singoli patrimoni, quanto il fatto, e lo ricorda la stessa Forbes, che per la prima volta nella classifica dei miliardari si sia superata quota 2.000 persone. E come se non bastasse, la fortuna complessiva di questi 2.000 super miliardari ha toccato i 7.670 miliardi di dollari, il 18% in più rispetto allo scorso anno. Due elementi, il numero e l'aumento rispetto all'anno scorso, che non mancheranno di suscitare polemiche e riaccendere il tema della distribuzione della ricchezza a livello mondiale e delle sperequazioni a cui stiamo assistendo. Quanto alla classifica, Bill Gates si conferma per il quarto anno consecutivo l'uomo più ricco del mondo, con una fortuna di 86 miliardi di dollari, in aumento di quasi 11 miliardi rispetto al 2015. Medaglia d'argento a Warren Buffett con 75 miliardi, e poi Jeff Bezos di Amazon conquista per la prima volta il podio, salendo al terzo posto. Seguono nomi già noti come Amancio Ortega, il patron di Zara, con 71 miliardi di dollari, e Mark Zuckerberg con 56 miliardi di dollari. Infine, interessante notare che Trump nella classifica perde 200 milioni di euro di patrimonio, una riduzione però più che compensata dall'elezione a presidente degli Stati Uniti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.